contenitore musicale in attività dal settembre del 2002, che anche per oggi andrà avanti sino a circa le 23:15, approfittando anche dell'assenza di Todos. E quindi The Disorder sarà l'ultimo appuntamento di oggi in diretta. Il contatto telefonico è lo 06 49 1750, sito internet www.ondarossa.info, anche per usufruire del nostro streaming e anche per leggere ovviamente le notizie contenute nel sito stesso. Per quanto concerne il lato sottoscrizione, ricordiamo ancora una volta 61 80 40 01, un conto corrente ormai storico che va intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, 00185, Roma. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, e infine questo spazio ha una pagina Facebook, Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder, dove domani, oltre che sul sito, verrà pubblicata la playlist e la registrazione, come si suol dire in italiano, di questa trasmissione odierna. Salutiamo Alessandra qui da Roma, come Loredana sempre qui dalla capitale, ed Enrico Cerrato invece, musicista di Petrolio, che ci sta ascoltando da Asti. L'autoproduzione è un canale privilegiato per questi spazi come della radio tutta, e quindi questa sera andiamo ancora una volta ad ascoltarci questo ultimo lavoro di un progetto romano, Stopper 72 di Gabriele Colandrea, un lavoro che si chiama Radio Neurora e che si muove nelle coordinate che vanno dal post rock alla new wave, con vaghi riferimenti anche elettronici. Questa sera ci ascoltiamo la traccia che va a chiudere questo lavoro e che porta il nome di Quattro Inverni. ultima Quattro Inverni, un brano che andava a chiudere questo Radio Neurora, questo ultimo lavoro di Stopper 72, Gabriele Colandrea, ex Clack di Daphne, uno dei personaggi più noti della scena, diciamo, sotterranea qui romana, e che è anche di Pink Floyd in questa Quattro Inverni, una influenza che ritengo abbastanza presente in tutte le note di questo ottimo lavoro. Una nuova realtà, sempre qui romana, si chiamano Granato. Ottima fusione tra elettro e evidenti elementi rock, anche qui dunque contaminazione del rock. Si chiama Corrente questo lavoro di 5 tracce. Ci ascoltiamo Entrata e Lampedusa. Thank you.